e benvenuti alla 14ª puntata di Cialtroni nello spazio, che oggi inizia con una sigla un po' diversa. E infatti abbiamo in trasmissione anche il fantastico Charlie Kopp. Questa era la sigla che Radio Onda d'Urto stava utilizzando per le trasmissioni dedicate alla May Day, per parlare degli Charlie Kopp and the Social Angel. E anche di May Day noi parleremo oggi, per spiegare un po' tecnicamente come è stata resa possibile la trasmissione di Radio Onda d'Urto in collaborazione con le altre radio via web e Radio Onda Rossa e le altre radio di Radio Gap durante la May Day, in cui, come molti nostri ascoltatori sapranno, abbiamo trasmesso direttamente dal centro del corteo tramite un camper che era stato attrezzato studio mobile e tecnologia wireless, scusate, UMTS, a cui ci siamo appoggiati per mandare lo streaming. E parleremo anche di news di questi giorni, una visione breve sul caso Calipari e i rapporti segreti, che poi non sono più tanto, cioè i rapporti con tra virgolette gli omissis, e che poi invece non sono più tanto così. Parliamo anche dei nuovi casini per Indy Media da parte della Procura di Roma su vignette contro il Papa, che non sono piaciute molto. Nuovo tentativo di censura da parte del sito, che tra l'altro non è né certo il primo né purtroppo sarà l'ultimo, dobbiamo temere, penso. Esatto. Ma iniziamo subito con una segnalazione. Questo weekend, il 7 e l'8 maggio, ci sarà a Bologna il Left Meeting, una serie di incontri, conferenze sul tema del copyleft, del no copyright, e che saranno seguiti da una serie di concerti di gruppi che hanno prodotto il loro materiale audio sotto licenze Common Creative, comunque distribuendoli liberamente attraverso vari siti di cui abbiamo a volte segnalato anche noi l'esistenza. In particolare stiamo ascoltando come base i Talk Show Host da Anomalo Record, dal sito che avevamo segnalato qualche settimana fa, www.anomalo.com, e questi sono i Talk Show Host. Al Left Meeting No Copyright e Copyleft di Bologna, appunto, cosa sarà? Sarà uno spazio aperto e interattivo dedicato alle nuove possibilità di divulgazione della cultura libera del suono, una cultura resa possibile dal no copyright, dal copyleft, e destinata a diffondersi, crescere e diventare grande. al Left Meeting troveremo, avremo dei concerti, delle proiezioni, delle installazioni di video, dei reading, delle creazioni di software open source, delle tavole rotonde, delle conferenze e delle mostre. Insomma, sarà un qualcosa di decisamente interessante, appunto, per quanto riguarda la cultura libera, diciamo, lontana appunto dai copyright e dalle forme di distribuzione monopolistiche che abbiamo praticamente tutte le forme di mediatiche odierne, dalla musica con il monopolio italiano della SIAE, eccetera eccetera, insomma. Giusto per dare un'idea dei temi che verranno trattati, dunque il programma è possibile trovarlo al sito copydown.inventati.org /left, oppure direttamente dal sito www.anomolo.com, c'è un link sia per la locandina sia per il programma. Comunque, per dare un'idea, la mattina di sabato ci sarà una serie di incontri su cos'è il no copyright, il copyleft, diritto d'autore nell'era di internet, diviso in due parti. Subito dopo una presentazione del Vademecum rilasciati del DVD Left Survival Kit del progetto Freebox, tutti progetti appunto che cercano di rendere concreta questa lotta contro il copyright con nuove forme di licenza e cose, e in conclusione ci saranno le nuove licenze libere, appunto la Creative Commons e altri modelli, con una discussione, una presentazione delle varie soluzioni, e poi svariati concerti presso diverse aree. Comunque andatevi a vedere il programma, che è piuttosto ricco. Personne, on a foncé sur eux, on les a fait reculer jusqu'à la place Alimanda. Et là, au moment où on est arrivé sur eux sur la place, ils ont tourné les talons, ils sont partis en courant, toujours dans la lignée, dans la route qui traverse Alimanda, et continuer après. Ils se sont arrêtés un peu quand même, un peu plus loin, et là, ils ont laissé. Continuiamo con la cronaca, stavolta si tratta di cronaca che è finita su tutti i giornali, il caso del rapporto Calipari, che è stato presentato senza omissis dal sito di www.macchianera.net. A quanto pare in Italia sia stato il primo a renderlo disponibile. Come è stato possibile fare questo? Ci sono state veramente poche precauzioni da parte dell'esercito, dei servizi segreti statunitensi nel creare questo, che si sono semplicemente fidati di tracciare una linea, sì. No, di colorare lo sfondo del rapporto in un documento PDF. Era difficile, Marco? Molti pensano che un PDF sia immodificabile, che una volta che venga creato non sia più possibile creare, insomma, spostare in qualche modo o modificare questo documento. No, invece è tutt'altro. Il PDF è un formato, tra l'altro, molto, molto avanzato dal punto di vista delle revisioni successive dello stesso testo, e cioè è decisamente un buon formato, tra l'altro aperto, e quindi questa caratteristica, però magari molta gente non riesce a vedersela subito, perché tutti per guardare un PDF utilizzano l'Acrobat Reader o qualcosa del genere, ma in realtà il PDF è un formato di testo praticamente simile a quanto potrebbe essere un punto doc di Office oppure un SVX di Star Office, di Open Office. E fondamentalmente l'errore grossolano che è stato fatto in questo caso, e che era già stato, non mi ricordo più di preciso quando, ma un po' di tempo fa era già saltato fuori un documento del genere cancellato appunto in qualche modo, è l'errore di fidarsi semplicemente su quello che l'occhio vede dentro un documento. Ricordiamo ad esempio per questa cosa che nei formati doc, quelli di Word ad esempio, vengono salvate tutta una serie di informazioni relative alla storia del documento, per cui le vecchie revisioni, le altre delle parti cancellate che non sono magari visibili poi nel prodotto finale, ma andando a prendere appunto il documento.doc si trovano dentro tutte tracce di addirittura a volte anche di documenti precedenti. E quindi ogni tanto salta fuori qualcuno che ad esempio fa delle figuracce perché manda una mail con dentro un punto doc, e in questo punto doc ci sono dentro delle vecchie versioni di altre cose, di file suoi, della lettera all'amoroso o di cose del genere. Comunque, per quanto riguarda il file del caso Callipari, la questione era abbastanza semplice. Le cosiddette cancellature o missis che sono state fatte nel documento originale non erano altro che il cambio dello sfondo al nero, quindi praticamente c'erano caratteri scritti in nero su fondo nero e quindi illeggibili, ma comunque presenti nel formato digitale, ed era sufficiente. Vabbè, macchia nera ha aperto il documento con la versione di Acrobat completa, quindi non con il reader, e quindi ha potuto fare di tutto su quella versione, quindi togliere lo sfondo nero e così via. In realtà era sufficiente estrarre il testo come testo, come c'è direttamente tra le funzioni dell'Acrobat Reader, e salvarlo in un documento TXT, e lo sfondo sarebbe scomparso tornando bianco e le parole sarebbero state di nuovo visibili. Comunque vabbè, le varie modalità comunque rendono l'idea che ancora di più la cialtroneria di chi ha creato questo documento, tanto che in effetti, al di là della questione informatica, sono in molti che pensano che questo documento sia stato reso leggibile apposta, con magari i nomi cambiati, perché è talmente assurda la possibilità che sia stato reso disponibile così facilmente che sono in pochi a credere veramente che quei nomi siano veri e che tutte le questioni, insomma, che gli omissis siano veramente disponibili a tutti. sempre restando nelle news, di questi giorni la notizia che la procura di Roma appunto ha chiesto di nuovo di cercare di andare a prendere, di sequestrare, diciamo, i dati che ci sono sui server di Indymedia, appunto perché la nuova ragione è che qualcuno si è divertito a pubblicare su Indymedia delle fotografie ritoccate del Papa Ratzinger, che appunto descritto, dato i suoi passati come appunto nella gioventù nazista o qualcosa del genere, appunto su questo tema ha presentato delle fotografie del Papa che fa il saluto tipo romano, non so, quello, sì, travestito da gerarca, esatto, preso da una vecchia foto, è stata sostituita la faccia, e poi altre foto con il Papa con al posto della croce una croce celtica e no, croce incinata, svastica, sì, la svastica, ok. Le informazioni appunto sulla storia del Papa Benedetto XVI sono presenti anche su Wikipedia. Se volete una conferma delle informazioni. E diciamo appunto che è cosa è successo, che appunto la procura di Roma ha chiesto appunto il sequestro dei dati relativi a questo, perché appunto l'ennesimo appunto tentativo di censurare a caso a destra e a sinistra nella rete delle cose che... L'accusa mossa è quella di vilipendio della religione cattolica, reato presente nel codice Rocco, quindi direi che è abbastanza stagionato. Interessante è appunto come consiglia l'articolo presente su Punto Informatico, che riprende la notizia, che una semplice ricerca su Google delle immagini riguardo a questo tema o a qualsiasi altro tema che possa portare vilipendio a una qualsiasi religione porta al ritrovamento di numerosissime immagini che possono essere dal divertente almeno divertente. E insomma, si può parlare direttamente di un altro attacco contro il sito di informazione libera e indipendente. Non è tra l'altro nemmeno il primo che ha vissuto. Giusto pochi mesi fa erano state sequestrate le due macchine a IMSA, che poi sono state restituite dal server di Londra, erano state sequestrate dall'FBI, e poi anche ancora più recentemente alcuni collaboratori comunque di Indymedia che stavano facendo del lavoro legale per il team di avvocati che sta difendendo i manifestanti del G8 a Genova nel 2001, sono stati visti sequestrare con l'accusa di diffamazione i loro computer, tra l'altro bloccando anche le udienze, perché evidentemente era impossibile per il team legale di lavorare senza questi computer. Prima di passare al prossimo argomento, due parole sulla musica che stiamo ascoltando. Alessandro. Allora, dalla biografia presente sul sito di Anomalo, i talk show nascono nel 2001 e sono composti da... Talk show host, sì. Da Daniele Cortese, Enrico Bolzan, che si occupa della parte audio, e Stefano Zatti, che si occupa della parte video. Il progetto è abbastanza articolato, non si limita semplicemente alla produzione musicale, che è quella che state sentendo adesso, di natura prettamente elettronica, basi e cose del genere. Loro si dicono ispirati da artisti come Radiohead e Bjork, anche se in realtà direi che è piuttosto sull'elettronica minimalista la loro produzione. Comunque è sempre piuttosto interessante. Comunque il progetto è un po' più ampio, si occupano anche di gestire un sito che si chiamava www.thunderion.org, che vorrebbe essere insomma un punto di incontro di una serie di artisti, di produzioni artistiche, audio, video e fotografiche di vario genere. Comunque sono abbastanza attivi e come DJ a questo punto anche abbastanza interessanti. Ricordiamo che al Left Meeting di Bologna, appunto il 7 maggio, si esibiranno al Sesto Senso di Via Petroni, quindi se voi avete intenzione di andare a questo Left Meeting potete andare a sentire anche loro. E dovrebbe esserci comunque un allestimento, un DJ set abbastanza ricco, quindi comprensivo anche di video e quant'altro. Parlano molto bene della loro attività live. Bene, e adesso andiamo a raccontarvi dove sono stati i cialtroni dello spazio sabato e domenica, comunque nel weekend, e cosa hanno fatto e per quale motivo la trasmissione è così scarna oggi. No, vabbè, non è in realtà una trasmissione scarna, è solo che ci teniamo molto a parlare del nostro ultimo esperimento, quello che abbiamo realizzato per le radio del circuito di Radio Gap, quindi Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa principalmente, e la collaborazione con altre radio via web del circuito di radio autistici. La settimana scorsa ci è venuta la fantastica idea di allestire un camper e trasformarlo in uno studio mobile per trasmettere direttamente dal corteo della May Day. Qualcuno se ne sarà accorto tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici sicuramente. Poi domenica in realtà la partenza è stata un po' in sordina, c'è stato qualche piccolo problema, però adesso andiamo a spiegarvi nel dettaglio di come abbiamo fatto, partendo proprio dalla strumentazione tecnica che ci è stata necessaria, che quindi abbiamo scelto un camper semplicemente per isolarci il più possibile dal resto della May Day, che era veramente chiassosa, confusionaria e chiassosa sicuramente. Per scelta ovviamente. Infatti sì, giustamente. C'è stato il tentativo di fare delle interviste con dei radiomicrofoni, che però purtroppo è quasi miseramente fallito, e abbiamo dovuto utilizzare dei microfoni a filo, perché comunque parlare fuori dal camper era veramente un'impresa per le interferenze radio, le onde e tutto quello che c'era. E quello che abbiamo fatto è stato quindi costruire questo camper, che era dotato di strumentazione minimale, quindi solito lettore CD e mixer che ci sono anche in una radio normalissima. La differenza era che questo camper, invece che essere dotato di connessione via telefono a internet e comunque a un trasmettitore vero e proprio, era collegato via telefono UMTS. Marco, allora adesso entriamo magari un attimo nel dettaglio di in che modo abbiamo potuto costruire la struttura portante che ha permesso di mandare il segnale. Quindi mixer e microfoni sono cose normalissime, cosa invece era la differenza, perché abbiamo dovuto utilizzare dei computer portatili, perché abbiamo dovuto utilizzare un cellulare particolare. Allora, diciamo, l'audio che veniva prodotto dai microfoni presenti sul camper aveva la necessità di mandarlo attraverso internet. Ovviamente mandarlo attraverso internet, il problema grosso è la banda di trasmissione, ovvero sia la capacità del canale che possiamo utilizzare per trasmettere questi dati. Abbiamo preso un telefonino UMTS. UMTS sono i nuovi telefonini dell'ultima generazione, che hanno quelli famosi che possono fare le videochiamate. Appunto, questi telefonini hanno una connessione di rete, ovvero sia si connettono al provider telefonico e possono utilizzare una quantità di banda decisamente superiore rispetto ai telefonini normali. Si parla di 384 kilobit al secondo, più o meno così a naso è la metà di una vecchia DSL come capacità di banda. E quindi più che sufficiente, più che sufficiente per appunto mandare un segnale audio compresso, ovviamente, però riuscire a mandarlo attraverso internet. In questo caso ci sentiamo di dire che è meglio di una DSL per mandare via internet, perché il telefonino UMTS, essendo strutturato per fare delle videochiamate, ha la stessa quantità di dati in uscita e in entrata, e quindi 384 bit che ci sono in uscita nel cellulare UMTS sono comunque di più dei 254 MIDI che vengono messi a disposizione di una DSL normale, ed è lo stesso motivo per cui abbiamo scelto un vero telefonino invece che non una scheda UMTS, che invece garantisce in uscita semplicemente 64 kilobit. Esatto, e anche se ho dubbi su questa questione della scheda, però comunque il telefonino invece garantiva questa doppia banda, e appunto abbiamo utilizzato il telefonino. Io smentisco i dubbi di Marco, perché sono andato a comprare il telefonino e ho guardato le caratteristiche della scheda, e quindi sono ovviamente scelte contrattuali più che tecniche. E no, però magari quello ha una trasmissione più bassa, perché dovrebbe essere... Lasciando perdere questo, oltre al telefonino, di che cosa eravamo? Appunto, oltre al telefonino avevamo bisogno appunto di una macchina che ci permettesse di prendere più sorgenti audio e decidere di buttarle e comprimerle in uno stream da passare poi via internet a un altro oggetto che replicasse questo stream verso coloro che volessero ascoltare. Cioè quello che viene fatto in sostanza in tutte le radio via web, cioè viene creato un file compresso che il vostro lettore, che può essere Winamp o quant'altro, legge e vi fa sentire direttamente alla radio online. E questo, se volete farlo, potete farlo per esempio collegandovi al sito di Radio Onda d'Urto, www.radioondadurto.org, seguendo Ascoltaci si arriva a un certo punto in cui c'è un indirizzo, viene rilanciato un file MP3 che permette di ascoltare la radio via internet. Questo si chiama stream. Esatto, e la cosa corrente. Sì, e la cosa carina di questo sistema è che a questo punto, diciamo, le altre radio di movimento che volevano ritrasmettere questo appunto quello che noi trasmettavamo dal corteo, dalla manifestazione, appunto, potevano semplicemente connettersi loro e poi ritrasmettere via etere attraverso le loro frequenze radio locali normali il segnale che prelevavano da internet anche a centinaia di chilometri di distanza, per cui diciamo la diffusione in questo modo riesce a raggiungere tutta la copertura delle radio via etere normali, e diciamo riusciamo con questo modo a fare un ottimo servizio di... Nella fattispecie allora abbiamo utilizzato un computer Windows per questioni di praticità. Sì, infatti la questione di Windows è stata purtroppo una questione dovuta più che altro ai tempi ristretti di farci venire un'idea all'inizio settimana e iniziare a implementarla verso la metà e realizzarla il giorno prima. D'altronde la trasmissione si chiama Cialtroni. Approccio Cialtrone nel risolvere i problemi. Vabbè, comunque comunque abbiamo utilizzato questa macchina XP, abbiamo configurato il telefonino, abbiamo configurato la macchina come gateway, quindi in modo che ci mandasse tutto il traffico via internet, e poi sull'altra macchina invece abbiamo utilizzato una distribuzione che si chiama Dynabolic, che è costruita dal mitico Jaromil di Roma, una persona veramente intelligente, esatto, in gamba, progetto tutto italiano, che appunto è una distribuzione studiata appositamente per generare streaming, ovvero per lavorarci sopra, ad esempio creando uno streaming con un DJ live o cose di questo genere. Quindi sostanzialmente questo significa che scaricando da internet Dynabolic si può costruire un CD che riavviando... Dimenticavamo, Dynabolic è un CD live, per cui... spiegando, Marco. Scusami. Quindi basta riavviare il vostro computer con questo CD dentro, e se tutto va bene, cioè quindi se viene sostanzialmente riconosciuta la scheda audio e se viene riconosciuta la scheda di rete, le possibilità di connettersi a internet, cosa che magari potrebbe richiedere qualche accorgimento, siete già pronti con la vostra macchina per poter costruire il vostro streaming collegandovi a un altro streaming, utilizzando in particolare un programma che si chiama Muse e che rende tutto veramente più semplice. Però insomma, entrare troppo nei dettagli forse non è lo scopo di questa trasmissione. Ci saranno comunque dei link di approfondimento sempre sul nostro sito internet, che tra un po' avrà anche un altro indirizzo. però per ora si raggiunge dal sito di circolab.net e poi si segue il link Cialtroni nello spazio. E Marco si è promesso di rendere obbligare disponibile Alessandro a fare di rendere disponibile l'indirizzo spazio.cialtroni.net. .net. Ricordiamo che già dalla settimana scorsa sono disponibili spazio.circolab.net. Sì, il nome mi sa che lo dovremmo ridare. Lo troverete sul sito, il nome del sito comunque. Sul sito comunque adesso sono presenti le puntate in file MP3 e a breve saranno disponibili anche il download tramite torrent, che dovrebbe andare molto più veloce. Sì, dovrebbe rendere più facile il download. Ah, ecco un altro strumento che abbiamo utilizzato per lo streaming di domenica e che potrebbe essere utile forse per qualcuno di voi che a casa non ha un indirizzo IP statico. Ah, esatto. Qua però si entra nella questione di che cos'è un indirizzo IP, cos'è un indirizzo IP statico, cos'è un indirizzo IP dinamico. Beh, l'indirizzo IP abbiamo già cercato di spiegare una volta, è un gruppo di 4 numeri da 0 a 255 che identificano una macchina internet, è sostanzialmente un modo numerico di dire via, indirizzo, città, una cosa così. Purtroppo ogni volta che ci colleghiamo a internet, nella maggior parte dei casi, questo indirizzo cambia e quindi sostanzialmente rende difficile utilizzare una macchina nostra, il nostro computer, per poter offrire dei servizi. Quindi per esempio far sì che qualcuno si possa collegare direttamente al nostro computer per navigare sul nostro sito web. Oppure per, ad esempio, cosa molto utilizzata, almeno da me personalmente, ma penso da un po' tutti, comunque collegarsi in remoto da una macchina, quindi non so, da casa al lavoro piuttosto che dal lavoro a casa, per poter fare amministrazione o prendere dei file o quello che più o meno viene spacciato come telelavoro nei grandi con questi network. Paroloni che poi sono spesso per comunque esiste conto. La possibilità di rendere quasi statico il vostro indirizzo IP. Beh, statico è difficile, nel senso che bisogna quasi. Cioè lo si paga quello statico, quindi o lo si paga o se no è dinamico, però siccome già l'altra volta abbiamo detto non difficilmente uno utilizza direttamente l'IP, ma utilizza quello che viene chiamato il nome, il DNS, il nome comunque legato a questo IP, che è ad esempio www.google.it eccetera, quello che normalmente la gente digita nella riga del browser. Anche questi nomi ovviamente sono a pagamento, costano relativamente poco, nel senso si parla di un 20-25 euro l'anno per avere un DNS, ma c'è anche la possibilità di averne gratuitamente. Ad esempio noi abbiamo utilizzato i servizi dinamici un servizio di DNS dinamico. Come funziona questo DNS dinamico? Semplicemente riusciamo, andando su un sito come dyndns.org, dyndns.org, a ottenere un dominio di terzo livello, ovvero un nome seguito da un punto, poi dyndns, che sono quelli appunto che ci forniscono il servizio, .org. Per esempio, gino.dyndns.org. Se questo dominio di terzo livello è libero, questi di DNS me lo assegnano e mi danno una login e una password, per cui io quando poi ogni volta che mi connetto a internet ho un programmino sul mio computer che automaticamente va a dire a questi di DNS qual è il mio indirizzo IP al momento, e quindi questi aggiornano in tempo reale le loro tabelle DNS, per cui qualsiasi persona, quando io ho il computer acceso a casa, vuole connettersi al mio computer, basta che digiti sul proprio computer gino.dyndns.org e accede al mio computer. In pratica loro fanno il lavoro di corrispondenza tra il nome e l'IP, lo fanno per noi, la loro macchina è sempre online con lo stesso IP ed è sempre riconosciuta, e la nostra mano a mano lo cambia e quando periodicamente segnala questo cambiamento alla loro macchina. E questa era la sigla che chiudeva la 14ª puntata di Cialtroni nello spazio. I cialtroni vi salutano. Esatto, speriamo di non avervi annoiato troppo con indirizzi IP e cose del genere. Comunque, se avete lamentele, proposte, cose e quant'altro, www.circolab.net, seguite il link Cialtroni nello spazio e dite la vostra.